sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo da quanto anche evidenziato dal Sole 24 Ore, ma mi riferisco all'INPS, l'articolo di Fabio Pavesi, i conti dell'INPS, in bocca al lupo al neo presidente Tito Boeri, ma insomma i conti segnalano una perdita per quello che riguarda l'INPS di 12,8 miliardi al terzo anno consecutivo, dopo perdite di oltre 9 miliardi sia nel 2012 che nel 2013. Questo è dovuto anche all'accorpamento con l'INDAP, ne parleremo a brevissimo. Poi le vicende di carattere più europeo, e mi riferisco non solo al tema dello scontro con Angela Merkel e Tsipras, nel senso che Tsipras mercoledì sarà a Bruxelles per incontrare il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, ma domani incontrerà, domani sarà a Roma, però la cancelliera tedesca ha detto che non vuole sostanzialmente incontrare da sola, fare un faccia a faccia con Tsipras. La cosa interessante però è che è arrivato un sostegno, devo dire molto inatteso, a Tsipras da parte del presidente statunitense Barack Obama, il quale ha detto pieno sostegno alla Grecia e uno stop, insomma, una contrarietà alla sola austerity. La Grecia non otterrà, ha detto Obama, una forte ripresa economica a meno che le autorità non rallentino i programmi di austerità. Tsipras ha anche escluso di rivolgersi a Mosca per gli aiuti. Parleremo anche del mercato del mattone, perché è uscita oggi una ricerca del centro dell'ufficio studi di immobiliare.it che va a guardare i prezzi delle case nel 2014. Beh, insomma, a parte il fatto che Firenze sia la città più cara per metro quadro, scalzando anche Roma, i cali medi dei prezzi delle abitazioni hanno toccato tra il 5 e il 6% nel 2014. Dicevo, Firenze è la città dove i prezzi a metro quadro sono più alti, superando anche Roma. Il capoluogo di provincia dove comprarsi una casa costa meno invece è Catanzaro, ma i cali più forti nel prezzo degli immobili si sono registrati al centro, meno 7%, e al sud, meno 6,8%. Addirittura in Molise si è arrivati a un meno 18% in un anno. La tenuta maggiore dei prezzi si è avuta invece nel nord-est, nel Trentino Alto Adige meno 1,2% i prezzi delle abitazioni, Friuli Venezia Giulia meno 2,2%. Calano in maniera più evidente i prezzi nelle grandi città, meno 4,8% negli ultimi sei mesi. Anche di questo parleremo. I dati sono del 2014. Ricordavamo proprio l'altro ieri, venerdì, che l'Istat ha fotografato invece un mercato immobiliare in ripresa quanto al numero di mutui e di compravendite. Ora sappiamo che le compravendite sono un segnale, perché quando calano, prima o poi calano anche i prezzi. Quindi all'opposto, se aumentano le compravendite, uno può aspettarsi che tornino a salire i prezzi. I due dati non sono in contraddizione, perché il primo riguarda il 2014, il secondo invece gli ultimi mesi e soprattutto il gennaio del 2015. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia per quello che riguarda Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. We'll be right back. Allora, per quello che riguarda la borsa, meno 0,17% oggi, Parigi più 0,26%, Francoforte più 0,70%, Londra più 0,10% e l'America più 0,13%. Tra i titoli oggi in forte ripresa Saipem più 5%, UX più 4,40%, Monte dei Paschi più 3,20%, Buzzunicem più 2,80%, Tenaris più 2,1%, Ferragamo più 1,60%, Banco Popolare più 1,5% come Mediolanum, Eni più 1,40%, Unicredit più 1,20%, Pop Emilia Romagna più 0,70% come Moncler. Tra chi perde, Telecom Italia meno 2% e poi ancora Popolare di Milano meno 1,70%, Luxottica pure, Autogrill meno 1,60% come CNH Industrial, Intesa San Paolo meno 1,30%, Exor meno 1,30%, Tods meno 1,1%, Enel meno 1%, Generali meno 1%. Euro su dollaro a quota 1,13,27 in questo momento. Allora, andiamo avanti con una puntata, poi magari ricorderò perché per Radio 24 un po' difficile. Vabbè, ricordiamolo subito perché è scomparsa una persona che ha contribuito moltissimo alla nascita e alla crescita di Radio 24. Si chiamava Fabrizio Guidi, era responsabile di tutta la parte tecnica della radio, dalle emissioni alla gestione delle attrezzature, una colonna portante, un galantuomo, e quindi tutta la radio è obiettivamente in lutto per questa scomparsa, ma noi andiamo avanti con la diretta e continuiamo su questo parlando delle notizie dall'estero. Exxon Mobil ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto in calo a 6,57 miliardi di dollari rispetto agli 8,35 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2013. Il petrolio a 48,2 dollari al barile, quindi stabilmente sotto i 50 dollari al barile. E per quello che ricordavamo, quello che riguarda Tsipras, come ricordavamo oggi, oltre ad aver escluso di rivolgersi a Mosca per gli aiuti, ha ricevuto una risposta indiretta dal portavoce di Angela Merkel e di Schäuble, ministro delle finanze tedesco. Hanno detto entrambi: è una riforma della Troika, un cambiamento del meccanismo di valutazione dei programmi di salvataggio non è in programma. E poi appunto fonti da Berlino fanno sapere che Angela Merkel vuole evitare un faccia a faccia con Tsipras. Due dati ancora, uno riguarda Etihad, possiamo inserirlo nelle notizie italiane visto che Etihad è l'azionista di maggioranza di Alitalia, in questo caso però riguarda solo il gruppo Etihad Airways prima dell'ingresso di Alitalia nel gruppo. Ha raggiunto nel 2014 un numero record di passeggeri di merci trasportate, 14,8 milioni di passeggeri più 23% nel 2014 rispetto al 2013, invece sull'Italia la Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Cassa di risparmio di Genova Giovanni Berneschi, ma anche per l'ex numero uno del comparto assicurativo Ferdinando Menconi e altre 8 persone nell'ambito dell'inchiesta sulla maxi truffa ai danni della banca. 7 indagati sono accusati di associazione delinquere finalizzata alla truffa. Secondo i PM, la banda che aveva proprio in Berneschi e Menconi i suoi vertici avrebbe truffato sistematicamente l'istituto di credito sin dal 1997. Allora, una precisazione a chi ci chiede della vicenda della Coldiretti che citavamo venerdì e dello stipendio del segretario generale Vincenzo Gesmundo, che ha guadagnato 10 milioni di euro negli ultimi 11 anni. Tra stipendio e buona uscita nel 2014 1,8 milioni, a cui un TFR di 200.000 euro, e tra l'altro su questo continua a mantenere una collaborazione con la Coldiretti a tempo determinato, 224.000 euro netti al mese, sono 18.000 euro netti al mese. Non voglio tornare sulla vicenda perché già l'ho commentata a sufficienza, faccio solo notare che ovviamente a chi ce lo chiede abbiamo cercato la Coldiretti. E Coldiretti, che nel suo diritto ha fatto sapere che non ha intenzione di intervenire in questo programma perché ritiene che i toni con cui abbiamo raccontato la vicenda non fossero corretti e che vi siano state anche delle inesattezze. Quali inesattezze? Non lo sappiamo ancora, e quando ce lo comunicherà Coldiretti ve le leggeremo, ci mancherebbe. Dopodiché restano aperti i nostri microfoni anche la Coldiretti, e anche in questo caso ci mancherebbe, perché per sapere dove sono state le inesattezze e che cosa hanno intenzione di dire. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, primo tema, prima del primo tema, scusatemi in gioco di parole, oggi alle 18 il Ministero dei Trasporti diffonderà i dati sulle immatricolazioni di gennaio. Vi daremo la notizia in diretta, ma l'analisi sul mercato dell'auto, anche e soprattutto nel 2015, oltre che negli ultimi mesi del 2014, è stata l'oggetto dei 100 secondi di Radio 24, sulle 24 ore, quelli che vengono realizzati in collaborazione con Radio Dimensione Suono. L'analisi di oggi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Platerotti. L'economia ne affanno, le incertezze sui redditi e sul lavoro pesano sui consumi, ma a quanto sembra la voglia di cambiare l'auto non è scomparsa affatto. Dopo un 2014 che ha segnato il primo rialzo per le vendite in Europa, dopo 6 anni di stagnazione, se non addirittura di contrazione in gran parte dei paesi, gennaio sembra infatti essere partito bene. Vuoi per gli incentivi che sono ormai fortissimi all'acquisto di auto, vuoi per il credito al consumo che sta offrendo tassi enormemente bassi rispetto a quelli che erano alcuni anni fa, ma l'andamento di gennaio sembra promettere bene. La Spagna ha segnato un più 27,5%, in questo caso veramente grazie ai fortissimi aiuti che il governo ha messo a disposizione di chi vuole cambiare l'auto. La Francia è andata con un più 9% e in generale, escluso il caso del Giappone che sembra preda del panico con la deflazione, con la paura di incertezza sul futuro, l'Europa, sia a livello di Unione Europea e di Eurozona che a livello di Europa allargata, sta dando segnali molto promettenti. Un po' per le solite, diciamo così, le case che un po' dominano il mercato, Volkswagen, la Nissan, la Ford e così via, ma in generale anche per i marchi di lusso è stato un anno positivo il 2014 e il 2015 sembra promettere bene. Ricordo soprattutto ad esempio la Maserati con più 260%, è stata un po' la regina in termini percentuali del mercato dell'auto nel 2014. Per quanto riguarda l'Italia, le stime dicono di un più 10%, con la Fiat che addirittura avrebbe fatto un più 11%, un incremento superiore al mercato che davvero poi si aspettavano. Certo è comunque che l'Italia si distingue sempre un po' per la confusione, e se la voglia degli italiani di cambiare auto non è scesa, anzi sta cominciando a tornare a galla, d'altra parte oggi 2 febbraio è il giorno per pagare il bollo e ancora una volta è una babele. In alcune regioni si pagherà di più, in altre di meno, dipende, poiché il bollo è materia regionale, non è lo Stato a fissarlo uguale per tutti. Con una variante, le auto che hanno 20 anni da quest'anno probabilmente in gran parte delle regioni pagheranno il bollo intero e non il mini bollo come è stato finora, che in tempi di crisi anche i vecchi pagano. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, primo tema di questa puntata, poi arriveremo ai prezzi delle case, l'INPS. Dicevo, sul Sole 24 Ore, a firma di Fabio Pavesi, un articolo in cui si evidenzia come il disavanzo strutturale, cioè il rosso dell'INPS, si stia aggravando di anno in anno, e quindi in bocca al lupo al neopresidente dell'INPS Tito Boeri, che ha già proposto e valutato una riduzione degli assegni calcolati col retributivo, quindi in base all'ultimo stipendio, nella parte in cui eccedono la somma a cui avrebbero diritto in base al sistema contributivo, quindi quando tu ricevi la pensione in base ai contributi effettivamente versati. Sappiamo che c'è una parte del paese pre-riformadini che ancora riceve la pensione con il retributivo, cioè sulla base dell'ultimo stipendio, quindi con un discreto se non alto vantaggio rispetto al sistema contributivo. Però dicevo, al di là di questo, l'INPS ha chiuso in perdita per 12,8 miliardi nel 2014, terzo anno consecutivo di rosso. Il problema è che le perdite erano di 9 miliardi nel 2012 e di sia nel 2012 che nel 2013, quindi da 9 a 12,8, insomma il peggioramento è sensibile. Il nostro ospite Fabio Pavese sulle 24 ore, buonasera innanzitutto. Buonasera a te agli ascoltatori. Per essere corretti va anche ricordato, Fabio, che questo buco non l'ha generato l'INPS in quanto INPS, ma una famosa fusione in cui l'INPS ha accorpato l'INPDAP. Ricordiamo la vicenda e perché, tra virgolette, il carico, non dico la colpa, ma insomma la responsabilità è soprattutto sull'INPDAP. Fabio. Bah, sì, l'operazione fu fatta a fine 2011. L'INPDAP è l'Istituto dei Dipendenti Pubblici, che era cronicamente in rosso, da un lato perché lo Stato era un grande evasore di contributi, cioè si è scoperto che lo Stato, gli enti locali, spesso non versavano i contributi del datore di lavoro e quindi questo creava un buco strutturale. L'INPDAP è stata fusa dentro l'INPS e ovviamente si è portata presso questo buco di circa 10 miliardi che ha quindi danneggiato i conti dell'INPS. Ha fatto il primo rosso nel 2012 per circa 10 miliardi, 2013 altri 9 e il 2014 chiuderà anche esso in rosso. Il problema non è però solo l'INPDAP, nel senso che il sistema previdenziale italiano è in fortissimo squilibrio, cioè il rapporto tra entrate e uscite solo per le prestazioni previdenziali è di circa 50 miliardi e tenderà a crescere perché ovviamente con la crisi e la recessione tu hai sempre meno contributi e in realtà la gente fino alla riforma Fornero tendeva a uscire prima e quindi tu hai un aggravio di uscite prestazionali. Questo buco ovviamente non può rimanere lì perché l'INPS non può fallire. Chi è che lo copre? Lo copre lo Stato italiano con i trasferimenti e quindi tu avrai, e purtroppo è scritto anche nel DEF del governo, che nei prossimi anni, da qui al 2018, lo Stato italiano dovrà aumentare i trasferimenti all'INPS di circa 10 miliardi all'anno. Cioè oggi la previdenza costa 250 miliardi, costerà 280 miliardi tra 3-4 anni. Quindi tu hai un aggravio continuo di trasferimenti che ovviamente vengono pagati dalla fiscalità generale. E quindi c'è un problema. Se la spesa pensionistica è fuori controllo, tu come fai poi a tagliare le tasse? Questo è un grande problema. Ecco, su questo, visto che oggi il ministro Poletti è intervenuto e ha detto il tema non si pone in questa maniera perché sappiamo che per quello che riguarda l'operazione di confluenza, cioè INPDAP dentro l'INPS, la previdenza legata ai dipendenti pubblici è a carico dello Stato, quindi il problema non si pone. Questa è la risposta di Poletti nel giorno in cui anche la Commissione Lavoro del Senato ha dato parere positivo sulla nomina di Tito Boeri alla presidenza dell'INPS, 14 voti a favore, 1 contrario, una scheda bianca. La scorsa settimana la Commissione Lavoro della Camera aveva già dato il suo parere favorevole. Allora, per la precisione, parlando dell'INPDAP, e non solo dell'INPDAP, perché tutte le gestioni sono in rosso, l'unica eccezione sono i parasubordinati. Sì. Nello specifico, partite IVA, Cococò e professionisti hanno un avanzo di 8 miliardi e mezzo, per cui paradossalmente da lì arrivano più soldi, c'è un avanzo di bilancio. C'è un paradosso colossale. Poi eroso dalle altre gestioni. Esattamente. I lavoratori agricoli sono in perdita per 5 miliardi e 400 milioni, gli artigiani per 6 miliardi, i dirigenti d'azienda per 3,8 miliardi. E quindi chi nell'immaginario quantomeno dovrebbe essere quello che meno è interessato, non interessato, ma che meno contribuisce alla pensione, perché le partite IVA, i Cococò, i professionisti, dici, quelli chissà come, hanno un avanzo di 8 miliardi e mezzo e finanziano, le gestioni in rosso appunto lavoratori agricoli, artigiani e dirigenti d'azienda sono quelle più macroscopiche. Come se ne esce? Ma intanto la frattura è generazionale, cioè il dato di fatto oggettivo, al di là delle rassicurazioni del governo, è che i giovani stanno finanziando le pensioni in essere. Il problema è che questi giovani, quando toccherà loro andare in pensione, avranno una pensione calcolata solo col contributivo e quindi probabilmente adesso stanno finanziando chi sta andando oggi in pensione e chi è in pensione col retributivo e quindi stanno facendo uno sforzo di finanziamento. Quando toccherà loro non ci sarà dietro di loro nessuno a finanziare nella stessa maniera e tra l'altro col contributivo l'aspettativa di pensione non è l'80% ultimo stipendio come col retributivo ma scende al 40-30%, quindi le generazioni giovani non sono a difficoltà ad avere lavori, come dire, a tempo indeterminato, ma corrono il rischio anche di avere pensioni molto povere. Questa frattura generazionale c'è, è evidente, su ricomporla ecco qui la proposta di Boeri. Boeri ha fatto un ragionamento molto semplice, dice: calcoliamo col sistema contributivo tutte le pensioni in essere, chi ovviamente sta percependo in questo momento più di quanto ha versato, gli chiediamo uno sforzo di solidarietà, di retrocedere un 10% di queste eccedenza, quindi non l'intera eccedenza ma una parte, e questo comporterebbe per lo Stato un risparmio di circa 4 miliardi. Sono 4 miliardi che lo Stato potrebbe utilizzare ovviamente per fare altre cose, tagliare le tasse, voglio dire, questa è una proposta di comune buon senso. Ho l'impressione che farà fatica a marciare, perché poi le resistenze corporative in questo paese sono sempre molto forti, soprattutto da chi la pensione già ce l'ha e ovviamente non vuole vedersela tagliata. Sì, devo dire che alcuni ascoltatori scrivono, Mastra Pasqua aveva definito il tutto come una situazione di partite contabili. In effetti è anche un po' brutto che arrivi un nuovo presidente come Tito Boeri, al di là di quello che uno possa pensare su Tito Boeri, e si becchi una perdita che poi sappiamo come si ricorda sempre il presidente in carica, non quelli passati. Insomma, Mastra Pasqua, l'uomo dal decine di incarichi, bravo lui, no? È bravo chi gliel'ha permesso, soprattutto, o meno bravo chi gliel'ha permesso. Però un allarme vero io non lo ricordo in questi anni, nel senso che se tu gestisci l'INPS e comunque avevi 9 miliardi nel 2012, 9 miliardi nel 2013 di rosso, e hai una proiezione comunque, perché immagino che, siccome stiamo parlando di pensioni, non è una cosa che arriva all'improvviso, una partita straordinaria, beh, un allarme lo potevi lanciare, no? Beh, l'allarme era scomodo perché, come dire, se tu nel documento di economia e finanza del governo scrivi, ed è quel documento è stato votato pochi mesi fa, che la spesa previdenziale salirà del 4-5% annuo nei prossimi 4 anni e il PIL è rimasto fermo in questi ultimi 8 anni e se va bene salirà di uno 0,5-1, tu lì hai un tasso di crescita delle pensioni che non c'entra nulla con l'economia reale, che è completamente fuori controllo. Questi dati sono scritti nero su bianco dallo stesso governo. E quello che è preoccupante è che pochi pongano il problema, perché quello è un problema reale, cioè se la spesa pubblica aumenta a questi ritmi, poi mi devono spiegare che tipo di spending review va fatta, perché ovviamente già fai fatica a fare una spending review normale. Se di fronte a una spesa previdenziale che cresce a questi ritmi devi fare una doppia spending review, però mi risulta che nelle proposte di Cottarelli, nelle proposte dello stesso Renzi, perché Renzi un anno fa era d'accordo su questo intervento sulle pensioni cosiddette alte, poi vedo che il governo sulle partite pensionista ha completamente tirato le mani indietro. Forse è un fatto politico, ovviamente quando tocchi le pensioni tocchi consenso, sì, elettorale. Questo non c'è dubbio. Vedo molti messaggi sull'idea di Boeri, del neo presidente dell'INPS, di chiedere a chi è andato in pensione con il retributivo una, diciamo sostanzialmente, una riduzione degli assegni nella parte in cui eccedono la somma a cui avrebbero diritto se fossimo andati sui contributi versati andati realmente. Non ha detto di tagliarlo completamente quella no, parte, infatti, ha detto una riduzione, come dire, un contributo di solidarietà, quello stesso contributo che i mitici consiglieri della regione Lombardia, ex consiglieri, non vogliono sapere di pagare. Corbani, ci sente? Lei che guida la rivolta assieme a Capanna. Capito, lotta dura senza paura per il vitalizio. A voi è stato chiesto il 10% neanche sulla pensione, su un vitalizio, che è tutto da discutere perché uno debba avere diritto come consigliere regionale. No, lo dico perché va bene poi chiedere i sacrifici anche a chi ha retributivo, poi abbiamo degli esempi, o meglio non abbiamo degli esempi da chi potrebbe darli il 10% in media, se chiesto agli ex consiglieri lombardi. Però vedo molti messaggi, devo dire che da qualche parte, se si vuole individuare un principio anche di solidarietà intergenerazionale, chi è andato in pensione con retributivo deve rendersi conto che ha un vantaggio che è scomparso, un po', è scomparso per tutti, è scomparso già per chi va in pensione adesso. E quindi chiedere una così solidarietà su questo, che non vuol dire dimezzare completamente, ma una solidarietà soprattutto... Uno potrebbe anche ipotizzare su certi livelli di pensione, perché sappiamo tutti che andare con retributivo quando guadagnavi 1.800 euro è una cosa, ci sono altri che sono andati con retributivo a migliaia di euro di pensione, Fabio. Ma infatti la proposta è veramente di buon senso, non si chiede di restituire quanto si è percepito in più con retributivo, ma su quell'eccedenza un piccolo prelievo di solidarietà intergenerazionali. Teniamo anche conto veramente che sì, la se Fornero... lo fanno anche i consiglieri regionali e la politica, e lo so, è più forte l'esempio dall'alto, perché come poi sempre... con i vitalizi questi rompono le scatole, manco stessero combattendo per i diritti dei bambini africani, e allora no, cioè di dà fastidio, perché adesso stiamo ragionando su un IMSS che non tiene, poi tocca anche leggere altre notizie. Comunque scusa, ti ho interrotto. No, ma banalmente questo, ovviamente non si tratta di toccare le pensioni da 1.000-1.500 euro al mese, si parla di pensioni di anzianità spesso conseguite con 30 anni di contribuzione, di gente andata in pensione 10 anni fa e che hanno mediamente importi di 2.500-3.000 euro, cioè sopra questa fascia. Ovviamente non si tratta di penalizzare pensioni già povere, ricordiamo che la previdenza INPS eroga circa 18 milioni di pensioni, la metà di queste sotto i 1.000 euro, quindi il mondo pensionistico è veramente molto variegato, tu hai le metà delle pensioni che sono pensioni di, chiamiamoli, di sopravvivenza, molte sono addirittura pensioni sociali, e poi hai pensioni tendenzialmente alte per l'altra metà della popolazione italiana, tu hai un mondo molto variegato in cui è difficile intervenire, ma un dato di fatto c'è, che le stime del governo ci dicono che la spesa previdenziale italiana, lo dice anche l'OCSE, è tra le più alte d'Europa nonostante 5 riforme consecutive negli ultimi 20 anni. Questo è un problema per il paese, poi ovviamente affrontarlo è difficile perché politicamente lo si vede, appena si lanciano iniziative, chiamiamole solidaristiche, c'è la levata di scudi soprattutto da chi quelle pensioni alte le percepisce. Allora, grazie a Fabio Pavese, abbiamo il metodo e la pubblicità, poi torniamo per la borsa e anche per il mercato immobiliare e poi i temi di carattere più internazionale. È vero che c'è, dalla Germania hanno detto che c'è un accordo o una sintonia, per essere più corretti, tra Angela Merkel e Matteo Renzi, ne parleremo più avanti. Oh, vedo molti messaggi sul tema della pensione, dei vitalizi, adesso non voglio tornare su Luigi Corbani, a me basterebbe che venisse in trasmissione una volta, non vuole mai venire, chi rappresenta appunto così, il gruppo che si è messo a difendere il taglio del 10% in media dei vitalizi degli ex consiglieri della Regione Lombardia. No, è ovvio che partite IVA e professionisti, dicono molti, abbiano un avanzo, sono giovani, ho capito, però il problema vero è il dato complessivo e capire che questi 8 miliardi e mezzo vengono erosi da altre gestioni, appunto lavoratori agricoli, artigiani, dirigenti d'azienda. Ancora però adesso arriviamo alla borsa, invariata Milano, giornata non particolarmente così impressionante sugli indici, anche se Francoforte ha fatto più 1,25%, Parigi più 0,50%, Londra più 0,20%, l'America più 0,47%. Più interessante è quello che è successo ai singoli titoli, che da un lato Saipem ha guadagnato il 5,17%, ma anche Jux e Ferragamo sono andati molto bene, Jux più 4,70%, Salvatore Ferragamo più 2%, su questa linea anche Moncler più 0,70%, dall'altro invece Telecom ha perso soprattutto nel finale, meno 2,32%. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Saipem e Telecom. Sì, per quanto riguarda Saipem, insieme a tutti i titoli petroliferi. Sì, anche Eni, più nei 30, hai ragione. Sì, ma anche in tutta Europa il titolo sotto indice dell'energia è l'unico davvero positivo, ha fatto più 2,75%. Ricordiamo che venerdì il prezzo del petrolio aveva rimbalzato di circa l'8% dopo i cali delle ultime settimane. Oggi in giornata è arrivato a guadagnare oltre il 2,5%. Anche se adesso sul finale sta chiudendo appena sopra la parità, comunque diciamo che i titoli hanno approfittato del recupero del greggio mettendo a segno buoni rialzi dopo le settimane difficili e recenti che hanno visto il crollo del prezzo del petrolio. Per quanto riguarda l'altra estremità del FTSE MIB, ricordavi tu Telecom Italia, in calo del 2,32%, il titolo ha guadagnato circa il 15% dall'inizio dell'anno, risalendo sopra quota 1 euro per azione. Quindi si tratta di realizzi, sempre in attesa di capire le evoluzioni della situazione in Brasile. Oggi sono arrivate le parole dell'amministratore delegato Marco Patuano, sì, che giudica difficile un'integrazione al momento in Brasile, quindi ha spento un po' la speculazione. Gli investitori hanno preferito prendere beneficio. Allora, per quello che riguarda, vedo moltissimi messaggi su questo, ancora sulle pensioni, non posso rispondere a tutti, poi magari ci arriveremo anche dopo e torneremo sul tema. Tornando invece alla borsa, ricordavi giustamente di Telecom e anche di come si stia raffreddando tutta la Telecom novella, come la chiamiamo noi, la vicenda brasiliana. Oggi però, oltre a Yux Ferragamo, tra l'altro dice che è stata anche una banca d'affari che ha promosso i titoli del lusso, no? Yux e Ferragamo, che hanno guadagnato appunto Yux il 4,7, Ferragamo l'1,9, e ha invece bocciato Tots, che ha perso Goldman circa Sachs, perché ti abbiamo perso. Goldman Sachs, sì, ti abbiamo perso un attimo. Goldman Sachs. Dicevo, oltre a questo c'è anche il caso di Buzzi Unicem, non ne parliamo spesso, però oggi più 3%, il terzo miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Sì, qui diciamo che a innescare gli acquisti è la notizia che la Fagiolsim, il colosso che sta nascendo dall'integrazione tra il gruppo francese e quello svizzero, ha avviato trattative per vendere asset per 6,5 miliardi a CRH, l'irlandese CRH, e prezzo che, se fosse confermato, indica multipli molto positivi per le attività del settore, quindi ha premiato praticamente tutto il comparto. Oltre a Buzzi più 3, segnaliamo anche fuori del FTSE MIB e Cementir Holding, che è salita del 6,91%. Per quello che riguarda altri titoli invece oggi in evidenza, segnalo tra i migliori e peggiori Edes più 20%, Montiv France più 8,40%, Seat pagine gialle più 7,14%, Bastoggi più 7, Cementir Holding appunto su questa linea, e tutto, come tu ricordavi, il cemento in generale che va bene, più 6,90%, Carrefour più 6,70%, Gavetti più 6. Fronte opposto invece Metorios Capital meno 5,70%, Hyreal meno 5,40%, Telefonica meno 3,80%. Ancora tra i titoli invece principali vorrei ricordare che è andata bene anche il Monte dei Paschi oggi più 2,90%, e di Tenaris dicevamo, e Unicredit più 1,30%, Banco Popolare più 1,80%. Visto che parliamo del Banco Popolare, e vi do anche la Pop Milano se la riesco a beccare, eccola qua, meno 1,70%. Vale la pena ricordare come il portavoce di Agebris Investments, quella di Davide, il fondo di Davide Serra, più volte nostro ospite, considerato il consulente più forte che ha Matteo Renzi nella City, l'uomo che gli ha fatto incontrare la finanza milanese, che interviene, è intervenuto sempre alla Leopolda. Allora, le polemiche nei giorni scorsi avevano riguardato la sua posizione sulle banche popolari, visto che la Consob sta indagando per capire se vi siano state posizioni particolari anomale prima dell'annuncio che il governo per decreto andava a modificare lo statuto delle banche popolari. Ricorderete la corsa dei titoli in quei due giorni. Allora, una nota del fondo Agebris sottolinea come Agebris Investments non abbia fatto alcun acquisto di banche popolari nel 2015, né per conto del fondo Global Financial Fund né per altri suoi mandati di gestione. Tra l'altro, la società di Serra ha precisato che l'attuale posizione del fondo nelle banche popolari risale al marzo del 2014. Ricorderete forse che in un'intervista proprio al Sole 24 Ore Davide Serra aveva dichiarato di investire nelle banche popolari italiane dal marzo del 2014, di avere costruito una grande posizione su una di esse. Molti la individuano nella Popolare di Milano. Comunque, la nota precisa che nessun acquisto è stato fatto nel 2015 e che le posizioni sulle banche popolari sono state aperte nel marzo del 2014. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corri, Sole 24 Ore. Restiamo in tema di mercato, ma di mercato immobiliare. Ricordavo che proprio venerdì l'Istat ha diffuso la notizia di un mercato immobiliare quanto a mutui e compravendite in deciso aumento negli ultimi mesi e soprattutto all'inizio 2015. Oggi però, ma dico però anche se le due cose non sono probabilmente in contraddizione, l'ufficio studi di immobiliare.it segnala e fa un'analisi ripresa da tutte le agenzie su come sono andati i prezzi del mercato immobiliare nel 2014. Meno 5,6% in generale. E poi le città dove i prezzi sono calati di più si registrano, sono tutte al centro, meno 7%, e al sud meno 6,8%. Poi c'è questo dato che ricordavo del Molise, meno 18%. Poi tengono invece i prezzi soprattutto nel nord-est, Trentino Alto Adige meno 1,2%, Friuli Venezia Giulia meno 2,2%. Soffre di più il mercato come prezzi nelle grandi città, meno 4,8%. I maggiori cali sono all'Aquila, dicembre 2014 su dicembre 2013 meno 17%, Campobasso meno 16%, Aosta meno 12%. Si sono ridotti molto molto poco a Trento e a Firenze, meno 0,7%, a Potenza, meno 1,1%. Forte il calo su Roma, meno 8,4%. E proprio Firenze è la città che ha superato Roma, 3.657 euro al metro quadro in media contro i 3.566 euro al metro quadro, poi segue Milano. Il direttore dell'ufficio studi di immobiliare.it è in collegamento con noi, Guido Lodigiani, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come stanno assieme i vostri dati con quanto l'Istat fotografava come terzo trimestre del 2014, ripresa dei mutui, ripresa delle compravendite e anche dei prestiti? Ma direi che stanno assieme, nel senso che questo calo dei prezzi, che indubbiamente c'è stato sia lato offerta sia lato conclusioni finali. Scusi, al viva voce per caso, Lodigiani, no? No. E allora è in 300 metri quadri divani non immobiliati, non ammobiliati, perché sentiamo un eco. Prego, come continui? Ok. Dicevo, quindi i dati stanno insieme, nel senso che c'è questo calo dei prezzi ha probabilmente favorito l'incremento del numero di compravendite che c'è stato. Vediamo che anche dal numero di richieste, dal numero di telefonate che registriamo quotidianamente, vediamo un buon interesse. Il problema è il prezzo, quindi il fatto che siano diminuiti, la nostra è una visione a consuntivo chiaramente, certo, che siano diminuite le quotazioni, fa proprio il paio con l'aumento del numero di transazioni, no? Registrato anche dall'Istat, e l'aumento delle domande di mutuo registrate anche dal CRIF, da Mutui Online. Se ho capito bene, lei dice le compravendite prima erano in calo anche perché l'offerta era troppo alta, sintetizzo in maniera un po' brutale, era troppo alta rispetto alla domanda. Nel momento in cui i prezzi calano è più facile trovare un accordo e un incontro tra chi vuole una casa e chi la vuole vendere, e quindi, visto che si trova un incontro, un punto comune, a quel punto aumenta anche il numero di compravendite. Due domande ancora. La prima, le medie sono sempre un po' le medie di Trilussa, ma anche nella vostra analisi sul 2014 tengono di più le abitazioni in centro, semicentro, e calano di più quelle sulla cerchia, uno, e due, il fatto che adesso le compravendite siano ripartite vuol dire che il calo dei prezzi è finito e potremmo iniziare a ragionare su un aumento, o è ancora troppo presto? Ma che il calo dei prezzi probabilmente è vicino alla conclusione, come è quello che ci aspettiamo, sì. Cioè, ci aspettiamo che il 2015 sia un punto di svolta, come sempre è successo in tutti i cicli immobiliari precedenti. Si è assistito a un aumento del numero delle transazioni, un aumento dell'interesse, e poi successivamente i prezzi hanno iniziato a salire. Quindi probabilmente quest'anno, nel 2015, si sarà vicino alla stabilità come quotazioni, o comunque con variazioni frazionali. Questa è un po' l'attesa. Per quello che riguarda invece le tipologie di abitazione, perché mi stanno scrivendo molti ascoltatori, guardi che è solo la cintura periferica, oppure a Torino non è calato niente. Allora è ovvio che sono medie, Ma se poi andiamo a collocare queste medie nelle tipologie immobiliari, dove si è avuto il calo più forte, sia come area sia come tipologie, dove invece il calo è stato più contenuto o quasi nullo, diciamo? Guardi, potremmo stare un paio di giorni a parlare, sì, delle diverse province italiane. Non, una cosa però che abbiamo notato è sicuramente che il calo che c'è stato sul mercato della seconda casa è stato superiore a quello della prima casa, parlo degli ultimi anni, no? Chiaramente era un tipo d'acquisto non di necessità, e quindi questo ci sentiamo di dirlo trasversalmente fra mare e monti, da nord a sud. E viceversa l'analisi è più articolata nelle grandi città, trasversalmente, pensiamo a Milano, adesso con l'Expo probabilmente avrà delle dinamiche diverse, no? C'è anche un forte spostamento verso la locazione da parte delle grandi proprietà immobiliari, e questo l'abbiamo registrato sia su immobili di livello basso, medio o alto, quindi è un aspetto trasversale, no? che si registra questa maggiore attenzione verso il mercato locativo, ecco. Verso il mercato locativo. Quindi da questo punto di vista, comunque, voi vi attendete che lentamente, se ho ben capito, perché ce lo chiedono ancora, nel 2015 qualcosa torni a muoversi. Ora non è né bene né male, cioè è bene se i prezzi risalgono per chi deve vendere, ma non ci vuole un genio, è male per chi vuole comprare, mettiamola così. Spesso uno si ricopre così i due ruoli, vuole vendere per comprare qualcos'altro, quindi gioca un po'. È un po' a somma zero. Voi vi attendete quindi che resti questa dinamica, anche perché immaginate un 2015 con facile accesso alla liquidità? Ma ci aspettiamo un miglioramento dell'accesso alla liquidità, testimoniato anche dall'incremento della volontà di comunicare sul tema mutui di vari istituti di credito e da budget crescenti. E ci aspettiamo un aumento del numero di transazioni, e questo già di per sé è un aspetto positivo, perché testimonia un po' di risveglio dello stato, esatto, di salute di qualsiasi mercato, nel nostro caso del mercato immobiliare. Sui prezzi, viceversa, l'aumento dei prezzi non ce l'aspettiamo ancora, però una ripresa di attenzione a questo tipo di investimento o d'acquisto migliorativo prima casa, certo, assolutamente sì. Allora, grazie al dottor Guido Ludigiani della cripta in cui ci chiamava, perché effettivamente una catacomba, una cripta da cui ci chiamava, grazie appunto al direttore dell'ufficio studi di immobiliare.it. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, occupiamoci di Grecia, ma anche di Germania, Italia e Stati Uniti. Vediamo di capire perché. Le ultime due settimane sono state molto delicate sul fronte dell'economia internazionale, lo abbiamo spiegato molte volte, alla riunione della Banca Centrale Europea con cui Mario Draghi ha dato via libera all'acquisto dei titoli di Stato dei paesi dell'area euro, e poi le elezioni in Grecia e Tsipras che sconvolge le carte. Sul fronte russo nel frattempo, e prima di arrivare alla Grecia, vorrei anche commentare la parte russa. Il Fondo Monetario ha fatto notare come se il petrolio resterà intorno ai 45 dollari al barile, e adesso siamo a 48, le banche russe avranno bisogno di alimentare le proprie riserve di almeno 45-50 miliardi di dollari, e sempre il Fondo Monetario ha stimato in un meno 3% la recessione, il calo del PIL russo quest'anno. Sempre la settimana scorsa la banca centrale, venerdì, a sorpresa, ha tagliato i tassi dal 17 al 15%, il rublo è tornato a perdere nei confronti di euro e dollaro, e ne abbiamo parlato anche perché la rivista Aspenia è uscita proprio con un rapporto sulla guerra dei prezzi del petrolio, l'indipendenza energetica americana. Ne abbiamo parlato con la direttrice della rivista Aspenia, che è una rivista che da sempre si occupa di relazioni internazionali, di geopolitica, Marta Dassù, che è stata già sottosegretaria agli esteri del governo Letta ed è appunto attualmente dirige Aspenia. Le abbiamo chiesto in primo luogo una valutazione, insomma, su prezzo del petrolio da un lato e situazione in Russia in questo momento, che molti individuano come l'unica vera variabile potenzialmente negativa in uno scenario, perlomeno per l'area euro, quasi tutto positivo: Draghi, tassi bassi, acquisti di titoli di Stato, petrolio basso, euro in indebolimento. Sentiamo Dassù proprio sulla quotazione del petrolio. Il prezzo molto basso del petrolio a seguito delle decisioni dell'OPEC del novembre scorso di non agire sulla quantità, questa era un po' la tradizione, invece si è lasciato che il prezzo scendesse così tanto, provoca dei, diciamo così, dei vincitori e dei vinti, e per la Russia è un grosso problema, è un grosso problema economico, è un grosso problema finanziario. Da questo punto di vista si pensa che tra le varie variabili, adesso vedremo anche le altre, che possono in qualche modo minare, ostacolare una ripresa che potrebbe essere favorita per l'area euro dal debole euro, quindi dalle nostre esportazioni, e da un prezzo del petrolio però altrettanto debole, quindi che non creerà inflazione importata e non creerà appunto un aumento dei prezzi, si ritiene che la Russia possa essere invece la variabile negativa che fa saltare questa situazione obiettivamente positiva per l'economia europea. Lei è d'accordo o ritiene che comunque lo shock russo sarà principalmente assorbito dalla Russia stessa, con delle ricadute anche per il nostro export, ma non tali da minare tutti gli altri elementi positivi? Ma per il momento sta danneggiando evidentemente, ma questo anche a seguito delle sanzioni conseguenti all'annessione della Crimea, sta danneggiando una serie di settori specifici dell'economia italiana per cui la Russia era importante. Per quel che riguarda il settore petrolifero, l'ENI in particolare sta tentando una riconversione, diciamo così, dall'asse est-ovest verso l'asse nord-sud, diciamo in parole povere guarda molto alle nuove importanti scoperte africane, in particolare in Mozambico. Per quanto riguarda l'economia europea nel suo complesso, io credo che i benefici del basso prezzo del petrolio per ora siano superiori al tipo di variabili geopolitiche che lei indicava. Ecco, dottoressa Dassù, se lei dovesse però mettere in una lista, diciamo, le variabili geopolitiche più rischiose, metterebbe al primo posto l'andamento del prezzo del petrolio oppure la Russia oppure l'esito elettorale in Grecia? Ma l'esito elettorale in Grecia non la chiamerei una variabile geopolitica in senso proprio, è una grossa variabile politica con le sue conseguenze economiche. Naturalmente una vittoria di Tsipras largamente annunciata dai sondaggi impatterà sugli equilibri interni all'area dell'euro, vedremo come verranno gestiti. Le variabili geopolitiche io forse metterei al primo posto la questione libica, che per un paese come il nostro, molto esposto sul fronte sud, è fortemente rilevante non solo per il petrolio ma anche, come sappiamo, per i flussi migratori e più in generale per la stabilità del fronte mediterraneo. Poi certamente la Russia, finché non ci sarà un qualche tipo di soluzione della crisi ucraina è difficile pensare a un vero rientro della Russia nel giro, diciamo così, del G8-G20. Per il momento la Russia è fuori e questo per l'Italia è effettivamente un problema. D'altra parte la questione è questa, e il vero cambiamento qui è venuto da Germania, da Angela Merkel, che ha assunto una posizione più dura rispetto alla posizione tedesca tradizionale. Quindi se dovessi dire, io metterei probabilmente la Libia al primo posto, forse la Russia al secondo. La verità però è che l'Europa, sia a sud che a est, è fortemente esposta, e da questo punto di vista gli Stati Uniti, per quanto in crisi politica, diciamo così, Obama è un presidente dimezzato, si avvia i suoi ultimi 2 anni senza una maggioranza parlamentare, però gli Stati Uniti, grazie alla ripresa economica effettivamente rimangono un'ancora di stabilità e anche, almeno in un certo modo, una locomotiva economica. Allora, così la direttrice della rivista Spenia, Marta Dassù, e proprio dagli Stati Uniti ripartiamo, perché cosa c'entrano gli Stati Uniti con l'Europa? Beh, insomma, il presidente Barack Obama ha dato ieri un forse inatteso assist, forse abbiamo letto male noi, alla Grecia, dicendo che appunto la Grecia non otterrà una forte ripresa economica a meno che le autorità non allentino i programmi di austerità. E molti hanno detto, ecco, che Obama dà una mano, Obama contro la troica. In realtà, su questo fronte, oltre al fatto che da quello che capiamo oggi da varie dichiarazioni di Bruxelles in vista del prossimo Consiglio europeo del 12 febbraio non vi dovrebbe essere un faccia a faccia tra Angela Merkel e Tsipras, non vuole avere questo incontro bilaterale, però Tsipras ha detto il superamento della troica è necessario per lo sviluppo dell'Unione Europea, sarebbe uno sviluppo maturo e necessario per l'Europa. Ha risposto anzi sempre Tsipras, citando varie fonti europee, su questo c'è un accordo anche europeo. In realtà il portavoce della Commissione Europea ha detto: attenzione, il presidente Jean-Claude Juncker ha già detto che la troica non ha futuro e che pensa a un meccanismo di controllo parlamentare sugli accordi, ma qualsiasi ipotesi di cambiamento non sarà comunicata prima di averne discusso mercoledì prossimo direttamente con il premier Alexis Tsipras. Poi sempre dal Ministero delle Finanze tedesco hanno confermato che ci sarà un incontro tra Schäuble e il suo corrispettivo ateniese Varoufakis, e poi Angela Merkel e Matteo Renzi sono uniti nei confronti di Atene, lo ha detto una fonte del governo tedesco riferendo di una telefonata di ieri tra appunto il premier italiano e la cancelliera tedesca. Oggi Matteo Renzi è intervenuto sulla Grecia dicendo: beh, serve serietà, prudenza e responsabilità. Io credo che sia fondamentale dare un messaggio chiaro. Quando noi abbiamo detto vogliamo cambiare la politica economica e la vogliamo cambiare in Europa, non è che noi vogliamo cambiarla per la Grecia o per un altro paese e basta. Noi vogliamo spostare la discussione della politica economica dalla austerity, dal rigore, alla crescita, agli investimenti, e da questo punto di vista noi siamo in prima linea e sono molto contento che sia una posizione che condividono in tanti ormai in Europa. Per quello che riguarda la Grecia, io credo che ci voglia grande senso di serietà, di prudenza, di responsabilità, e che di questo discuteremo con il primo ministro Tsipras e con i suoi collaboratori, e così come ne ho discusso ieri con Angela Merkel, così come continueremo a fare con tutti gli altri a partire da François Hollande, perché penso che, insomma, alla fine l'Europa si sta mettendo sulla strada giusta ora. Bisogna mettersi ancora un pochino più veloce, un pochino meno burocrazia, un pochino più crescita e investimenti. Ma io sono convinto che ce la faremo, e che ce la faremo anche in tempi più rapidi di quello che pensavamo. E poi il ministro del tesoro britannico Osborne, che oggi, dopo aver incontrato il suo omologo ellenico, appunto Varoufakis, dice: lo stallo fra la Grecia e l'area euro sta diventando il più grande rischio per l'economia globale. Ci ha raggiunto in collegamento da New York Mario Pratero, corrispondente del Sole 24 Ore. I think what is true is that you cannot keep on squeezing. Penso che il punto sia che non è possibile continuare a spremere paesi che non sono nel mezzo della depressione. A un certo punto deve esserci una strategia di crescita che consenta loro di pagare i debiti per eliminare alcuni dei loro disavanzi. Non c'è dubbio che l'economia greca abbia un disperato bisogno di riforme. È risaputo che il pagamento delle tasse è a livelli bassissimi. Penso che per far sì che la Grecia riesca a essere competitiva sui mercati globali, un percorso serio di cambiamenti debba iniziare. Ma è dura avviare questi cambiamenti se gli standard di vita delle persone stanno calando del 25%. Con il passare del tempo, alla fine, il sistema politico, la società, non può sostenerli. Il mio augurio è che la Grecia resti nella zona euro e penso che questo richieda compromessi da entrambe le parti. Quando anni fa la crisi finanziaria è scoppiata in Grecia, noi ci siamo prodigati per arrivare a una sorta di conciliazione, di accordo. Penso che la Germania e altri paesi riconoscano che sarebbe meglio per la Grecia rimanere nell'area euro invece che uscirne. Parlando più in generale, io sono preoccupato per la crescita in Europa. Il consolidamento fiscale è importante, le riforme strutturali sono necessarie in molti paesi, ma abbiamo imparato dall'esperienza qui negli Stati Uniti che il miglior modo per ridurre il deficit e per avere i conti in ordine è che ci sia la crescita economica. E se l'economia è in caduta libera, occorre avere una strategia per la crescita e non solamente continuare a spremere la popolazione che soffre sempre di più per la situazione in cui si trova. Lo dice Barack Obama. Mario Platero, Obama Tsipras, che è? Ma sì, perché Obama non dice qualcosa di molto diverso da quello che ha detto il Presidente del Consiglio, se ci pensi. Sì, sì. Qui non stiamo parlando soltanto di Grecia, stiamo parlando di Europa. Il Presidente americano già un paio d'anni fa ha attaccato l'Europa dicendo c'è qualche cosa che non va in questo meccanismo europeo, se sui paesi membri, sui 18 paesi membri ce n'è soltanto uno che cresce e gli altri vanno male. Era un attacco alla Germania, e la Germania che si ostina a non voler mettere il premio, il pedale dell'acceleratore a tavoletta e di tenerlo invece a tavoletta su quello del freno. E dunque il messaggio di Obama è chiaro, si rifà a quel suo messaggio di qualche tempo fa. Europa, datti da fare, renditi conto che devi crescere per poter pagare i tuoi debiti, perché se sei indebitato e non hai soldi, beh, insomma, riduci un paese sull'astrico. La Grecia diventa un esempio, se vuoi, ma come diceva Renzi, il problema è un problema europeo. E io credo che con il bilancio che ha presentato questa mattina il Presidente, l'ha presentato poco fa, ha fatto un suo annuncio formale, c'è, è vero, l'idea di dedicare molte attenzioni alla classe media e di cercare di recuperare un aumento del reddito, di combattere la sperequazione e così via, così via. Però sul piano pratico Obama continua a presentare delle manovre per la crescita, nonostante l'economia americana stia già crescendo. Perché? Perché Obama vuole giocare d'anticipo. Te ne cito una che è molto interessante. Obama propone una tassa del 14% sui profitti che le aziende americane continuano ostinatamente a tenere all'estero, perché se li rimpatriano si trovano a pagare delle tasse ancora più elevate. Ecco, cosa vuol fare Obama con questo introito? Sempre che sia approvato dai repubblicani, ma c'è forse qualche possibilità che questo accada, vuole dedicarlo a delle spese, degli investimenti infrastrutturali, mi pare è stato calcolato in circa 265 miliardi di dollari, costruzione di ponti, di strade, quindi creazione di lavoro in America. Questa è la differenza di fondo. L'America non si preoccupa di ridurre un debito che dal 75% del PIL passerà in 10 anni al 72%, si preoccupa di tenere la crescita. Siamo in un momento difficile, quindi per ora teniamo il piede saldamente sulla crescita, poi vedremo. Beh, in effetti parlare di infrastrutture fa venire in mente il no tedesco sempre e continuo a ogni ipotesi di investimenti infrastrutturali in area euro da scorporare, da levare dal calcolo del deficit. Mentre c'è, tra questi anche modestamente noi, chi ritiene che un deficit vada distinto tra quando è, tra virgolette, buono e quando è cattivo, nel senso che se un deficit fatto sulle spese correnti e sugli sprechi è un deficit negativo, se è un deficit perché sta investendo per la competitività di un paese o di un'area geografica con quella euro, dovresti non calcolarlo come un deficit fatto per esempio per le spese del funzionamento della pubblica amministrazione, che possono essere ridotte. Per concludere, Mario, che possibilità ha però Obama di vedersi approvata dal, perché come ti ricordava anche Matt, da su lui non ha più la maggioranza nel congresso americano. No, non ha ha la maggioranza e sicuramente dal punto di vista tra virgolette ideologico, cioè l'idea della redistribuzione, l'idea di imporre delle nuove tasse per esempio sui più ricchi, sui guadagni di capitale e così via, sarà ostacolata dai repubblicani. Però Paul Ryan, che che è stato tra l'altro quello che ha corso con nelle scorse presidenziali come candidato alla vicepresidenza di Romney, ed è il presidente della commissione appropriazione, quindi è l'esperto del bilancio per i repubblicani, ha tenuto una porta aperta invece sulle possibili riforme fiscali societarie, e cioè una riduzione dal 28 al 25% dell'aliquota sui profitti societari, e chissà, forse questa tassa sui profitti che può essere ridistribuita, come dicevi te, si tratta di una redistribuzione su investimenti, sulla crescita, sulla creazione di posti di lavoro, e quindi è una voce diversa da quella che potrebbe essere interpretata come una voce di spreco o di riallocazione del debito, delle risorse che viene dall'alto. Grazie anche a Mario Platero in collegamento con noi da New York. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni un augurio di buona serata, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.